May I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah, I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici della Double RMI, benvenuti a I Love Italy, programma interamente redatto e curato dalla redazione italiana, in studio Andrea Mangiarotti, il vostro Andy Mangiarotti. Vi ricordiamo che questa trasmissione è trasmessa su kilohertz 7780 pari a metri 41 e vi ricordo tutti i nostri vari contatti. Abbiamo il mio sito personale www.andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, nonché anche il sito di Radio Miami International wrmi.net. wrmi.net, questo è il sito ufficiale dell'emittente che ci ospita. Siamo arrivati finalmente ad un mese eccezionale, il mese di dicembre. Tutto cambia faccia, cambia volto, tutto diventa più bello, più magico, diventiamo un po' tutti bambini perché è il periodo natalizio, è il periodo insomma che ci accompagna alle vacanze natalizie. È un pochino che non ci sentiamo magari proprio in questo modo abbastanza allegro. Io mi scuso, ma ho dovuto fare alcune cose, sto aggiornando anche il sito internet www.voiceofitaly.it oppure anche Andrea Mangiarotti .com, quindi da quei siti potete richiedere la cartolina QSL se ci state ascoltando. Quindi abbiamo avuto un pochino qualche mese di assestamento, ora però si riprende alla grande. Dicevamo per l'appunto di dicembre, del mese di dicembre, in questo mese meraviglioso che ci porta al Natale, alla nascita di nostro Signore Gesù Cristo e all'arrivo anche del nuovo anno, la speranza che sia un anno migliore un po' per tutti. Ora volevo mandare un abbraccio e un caro saluto a tutte le persone che ci ascoltano in giro per il mondo, perché Jeff White mi fa sempre pervenire alla porta di ricezione e vedo veramente amici e amiche della radio che ci sentono dalla Cina, dal Giappone, dall'Australia, dall'America Latina, dall'Europa e così via. Quindi se ci state sentendo da qualche zona particolare, non so, magari Cina, Giappone, Asia e così via, anche perché no, anche Corea del Sud, Corea del Nord, fattivi sentire, mandateci un rapporto di ricezione www.andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it oppure ancora wrmi.net, wrmi.net. Natale, e cos'è il simbolo del Natale italiano se non il presepe? Esatto. Nei paesi nordici, come ben sapete, il simbolo è Babbo Natale, presumo anche negli States, negli Stati Uniti, è la figura insomma di Santa Claus. In Italia invece abbiamo questa figura di Gesù Bambino, anche Santa Lucia, che porta i doni ai più piccini, ai bambini e alle bambine. In alcune zone dell'Italia, in alcune regioni, come ben sapete, arriva Santa Lucia e porta i doni a tutti i bambini e a tutte le bambine brave, ma anche quelle meno brave, diciamo così. E poi a Natale, sempre in altre regioni italiane, abbiamo Gesù Bambino che porta i doni a tutti i ragazzi e a tutti i bambini e le bambine. Quest'oggi parliamo proprio del presepe, del santo presepe. Ne parla anche il nostro Santo Padre, Papa Francesco, nella sua lettera apostolica, per l'appunto Admirabile Signum, dove parla per l'appunto del valore del presepe. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. È vero, rappresenta l'evento della nascita di Gesù, equivale all'annuncio, il mistero della incomazione del Figlio di Dio, con semplicità e gioia. Il presepe infatti è come il Vangelo vivo che trabocca dalle pagine delle Sacre Scritture. Mentre contempliamo la scena di Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo, e scopriamo che egli ci ama dal punto di unirsi proprio con noi, perché anche noi possiamo unirci a lui. Con questa lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle famiglie italiane che nei giorni precedenti il Natale, per l'appunto, preparano il presepe. C'è anche chi lo prepara ai primi di dicembre, come pure la consuetudine di allestire nel luogo di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, proprio questo bel presepe italiano. Magari voi ci state sentendo giustamente dall'Europa, dagli States, magari non conoscete il presepe italiano. Praticamente sono delle statuine fatte in legno, solitamente in legno, ma adesso ci sono anche in plastica e così via, che raffigurano per l'appunto la Natività con Gesù bambino, San Giuseppe, la Madonna, il bue e l'asinello. E in Italia è tradizione, per l'appunto a Natale, in ogni casa ma anche in ogni luogo di lavoro, come appunto dice il Santo Padre in questa sua lettera apostolica bellissima, allestire proprio un presepe con le lucine e così via. La tradizione vuole che Napoli, la città di Napoli, la campagna primeggiano proprio per la costruzione anche artigianale di presepi. Poi ci sono anche sbizzarriti i napoletani, perché insomma dovete sapere che i napoletani hanno veramente tanta fantasia, creatività, vivono, si può dire, la giornata. Quindi c'è anche chi è che ha creato un presepe alternativo, magari disegnando i giocatori oppure anche i personaggi politici. A Napoli avviene questo, sono per lo più presepi, diciamo così, non tanto religiosi, ma piuttosto per sdrammatizzare un po' sulla situazione. E poi il Santo Padre, in questa sua bellissima lettera apostolica, continua dicendo per l'appunto l'origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L'evangelista Luca dice semplicemente che Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Quindi Gesù viene depositato in una mangiatoia, che in latino dice per l'appunto presepium, da cui il termine in lingua italiana presepe. Che poi anche questa scena, per l'appunto, ci viene sempre detto che il Natale deve essere soprattutto una festa, ed è vero, non votata sullo spendere soldi, regali di qua, regali di là. Ci sono anche tanti bei film, no, che ripercorrono lo spirito del Natale, dai più vecchi anche soprattutto di Hollywood, ma anche ai più moderni, anche dove per l'appunto si mette in evidenza la bellezza del Natale non solo sotto il profilo del denaro, ma anche della semplicità di questa bella festa, no? Che appunto trova riscontro in questo passaggio che abbiamo letto, che Gesù non trovava posto in alloggio perché probabilmente Giuseppe e la Madonna non avevano le possibilità economiche per l'appunto di alloggiare in un alloggio, e allora viene deposto in una mangiatoia. Poi il Santo Padre continua: veniamo subito all'origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci recchiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa, per l'appunto Onorio III, la conferma della sua regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il passaggio di Betlemme, ed è possibile che il poverello fosse rimasto colpito. a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici che rappresentano dalla nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservano, secondo un'antica tradizione, le tavole della mangiatoia. Ora torniamo invece a giorni un po' più recenti, quindi torniamo ai giorni nostri. E c'è veramente un presepe molto bello che si trova in Liguria, che per l'appunto vi voglio citare. Lo sto guardando proprio in real time con internet. Ecco, abbiamo parlato del presepe di un tempo, della bellezza, del fascino per l'appunto di questa grande tradizione, soprattutto italiana. Ora però torniamo ai giorni nostri. Siamo nel 1976. Mario Andreoli, che è, per l'appunto abita nelle Cinque Terre in Liguria, a Manarola, decide nel 1976, pensate che bello, di costruire un presepe sulle colline proprio delle Cinque Terre, della Liguria per l'appunto. Su queste belle colline vicino alle Cinque Terre costruisce delle statue in legno, soprattutto tutte adornate, colorate, e soprattutto con delle luci, no? Quindi costruisce questo bellissimo presepe che ogni anno, a partire dall'8 dicembre fino al 2 febbraio, si accendono alla sera queste luci sulla collina delle Cinque Terre. Immaginate questo bellissimo presepe tutto illuminato, uno dal mare, si reca al mare, alza gli occhi al cielo e si vede questo capolavoro che l'uomo ha creato. Quindi a Manarola, nelle Cinque Terre, in Liguria, se magari siete in vacanza in Italia, una cappatina la farei. Questo presepe è costruito e, pensate un po', assembla e posiziona quasi 300 personaggi, tra cui pastori, contadini, angeli, re magi, pescatori, costruiti con materiali riciclati. Allora, materiali riciclati: 15.000 lampadine, 7 km di cavi elettrici in 4.000 metri quadri di terreno e sconnesso proprio sul mare. Questo presepe è ormai diventato una tradizione dalla Liguria in tutto il mondo. Pensate che bello, io non ho mai avuto questa fortuna, però se potete, dall'8 dicembre, ricordate, al 2 febbraio c'è questo presepe bellissimo che si sviluppa nelle Cinque Terre. Quindi siamo nella riviera di Levante, passato Sesta di Levante, le Cinque Terre e così via. Abbiamo fatto una puntata un po' alternativa questo dicembre. Io ho finito, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio come sempre Jeff Dwight per la concessione di poter essere in vostra compagnia. Andrea Mangiarotti augura a tutti voi e anche al nostro caro Jeff, alla sua famiglia, buon Natale e buon anno. Mi raccomando, passate un buon Natale e un buon anno, e cerchiamo veramente anche per questo Natale di essere un po' più umili, cercare di incontrare il nostro Signore Gesù Cristo con dolcezza e tenerezza, con una preghiera, di non dimenticandoci anche della bellezza e della maestosità del presepe, che vi invitiamo a fare. Se non l'avete mai fatto, informatevi e lo troverete e saprete come fare, o se no scrivetemi e vi spiego che cos'è il presepe italiano. Grazie ancora per l'attenzione, dalla redazione italiana è tutto, io cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee per le trasmissioni che seguono I Love Italy, sempre qua, Double RMI, da Andy Mangiarotti veramente tutto, ancora una volta buon Natale e buon anno, Merry Christmas!